adesso ti metto le mani in bocca, adesso ti metto le mani in bocca, adesso ti metto le mani in bocca e balla il ritmo che non ti tocca. Gira la notte, la luna gioca, occhi che brillano come una stella sciocca. Adesso danza, conosco la tua bocca, ti seguo, guido io nella nostra trocca. Adesso ti metto le mani in bocca e il tempo scivola come una rocca. Muoviti tu e la melodia mi blocca. Adesso ti metto le mani in bocca sulla spiaggia sotto il cielo di seta. Un ritmo caldo che ti sfiora in fretta. Il mare canta la nostra canzonetta, le mani parlano e tu rimani in vetta. Adesso ti metto le mani in bocca e il ritmo sale poi ci ricollega. Balla con me che la notte scotta. Adesso ti metto le mani in bocca, sorrisi languidi come scie di fuoco. Sotto le stelle ci perdiamo nel gioco. La tua voce suona come un desiderio, un sogno pazzo e vivace del nostro impero.